Marta era una ragazza semplice, di campagna, nata e vissuta in una casetta in mezzo alla brughiera, con tanti fratellini e sorelline più piccoli di lei, ai quali si insegnava ad arrangiarsi da soli al più presto possibile, perché c'erano tante cose da fare in casa e ognuno doveva aiutare come meglio poteva. Dovresti vederli, miei fratellini, disse. Pensa, siamo in 12 a casa e mio padre guadagna solo 16 scellini la settimana. La mamma riesce a raggranellare qualche cosa anche lei, altrimenti come si farebbe a mettere in tavola il porridge per tutti? Per fortuna c'è la brughiera, loro ci scorrazzano tutto il giorno e la mamma dice che è l'aria buona che respirano a farli ingrassare. A volte, dice, hai sospetto che bruchino l'erba come fanno i pony. Vedesi il pony di Deacon, che bello che è. E chi è Deacon? Chiese Mary, che cominciava a interessarsi ai discorsi di Marta. È uno dei miei fratelli, quello che ha 12 anni. E come ha fatto a comprarsi un pony se siete così poveri? Non l'ha comprato, lo ha trovato nella brughiera. Sono diventati amici. Deacon riesce a montarlo. Sai, è difficile con un puledrino selvatico, ma Deacon riesce a essere amico di tutti. Il suo cavallino vive nella brughiera, ma ogni tanto viene vicino a casa a cercarlo e allora giocano assieme e Deacon riesce a cavalcarlo. Mary non aveva mai posseduto un animaletto tutto suo, ma qualche volta aveva pensato che le sarebbe piaciuto. Questo Deacon, che riusciva a farsi amico degli animali, le appariva come un personaggio molto interessante. Era la prima volta che provava un senso di ammirazione e simpatia per qualcuno. Marta la precedette nella stanza che comunicava con quella da letto. Mary si fermò sulla soglia. Marta ha detto che l'hanno preparata apposta per me, pensò, ma chi l'ha arredata non aveva mai visto un bambino. Non c'è un giocattolo qui dentro. E questi mobili scuri, grandi, queste seggiole che non riuscirei a spostare mai. Sulle pareti c'erano dei vecchi grandi quadri a olio con paesaggi e ritratti, sui quali il tempo aveva deposto una patina scura. Nel centro della stanza, su una grande tavola rettangolare, c'era una tovaglietta che ne occupava una minima parte e sopra questa era apparecchiato per la colazione. Siediti, è pronto da mangiare, la incoraggiò Marta. Per me? Ma io non ho fame. Non vuoi quel buon porridge? Esclamò Marta. Oh, provalo, senti com'è buono. Magari mettici un po' di zucchero o miele se non ti sembra abbastanza dolce. Ti ho detto che non lo voglio, ripeté Mary. Oh, è proprio un peccato mortale disprezzare un buon cibo così, esclamò Marta. Se ci fossero qui i miei fratellini farebbero piazza pulita in 4 e 4 8. E cioè? Chiese freddamente Mary. Cioè mangerebbero tutto in un attimo? Perché hanno sempre fame. Non credo abbiano mai avuto lo stomaco pieno da quando sono nati. Sono sempre affamati, come le volpi, come gli avvoltoi. Non so cosa vuol dire essere affamati, replicò Mary. Non si rendeva conto di quanto fosse crudele quella frase, dettata dalla sua ignoranza degli altri e dal suo egoismo. Oh, ti farebbe bene provarlo, esclamò Marta indignata. Se parli così, beh, fa un po' come ti pare, non ho pazienza di stare a insistere con una che fa le smorfie davanti a questo ben di Dio, se penso ai miei fratellini. Perché non gliela dai a loro questa roba? La sfidò Mary. Primo, non è roba mia. Secondo, oggi non è il mio giorno libero, non vado a casa. È solo una volta al mese che posso andare a casa. Lo chiamano il mio giorno di riposo, ma io in quel giorno lavoro più che mai perché mi sembra giusto aiutare la mia mamma e lasciar riposare un po' con lei. Lei i giorni liberi non ne ha davvero mai? Mary si avvicinò alla tavola, beve una tazza di tè, mangiò un pezzetto di pane spalmato di burro e marmellata di arance. Adesso mettiti questo bel golf pesante e vai in giardino a giocare, propose Marta. Ti farà bene l'aria fresca e ti verrà un po' di fame per mezzogiorno. Mary si avvicinò alla finestra. Si vedevano gli alberi del grande parco, i vialetti e le piante dei giardini, le stradine di ghiaia, ma tutto era pervaso da una tristezza invernale. Fuori? Che ci vado a fare con un tempo così? Boh, se non vuoi andare fuori, sta dentro, ma non vedo cosa puoi trovare da fare qui. Mary dette un'occhiata in giro. Non c'era niente di attraente in quella stanza. Era una stanza per bambini senza un giocattolo, senza niente con cui passare il tempo. Forse è meglio che vada a dare un'occhiata fuori, pensò Mary e chiese ad alta voce: Chi viene con me? Ah, devi arrangiarti da sola, come fanno i bambini che non hanno fratelli e sorelle. È bello lo stesso, anche se non hai compagnia. A Deacon, per esempio, piace molto andare da solo nella brughiera. Ci passa delle giornate intere. È così che ha fatto amicizia col pony, che ha imparato a imitare il canto degli uccelli, il verso di tante altre bestie. Sai, lui ci può parlare con gli animali. Li chiama e loro vengono verso di lui. Vedessi gli uccellini come arrivano fin sul palmo delle sue mani a beccare le briciole. Da mangiare c'è poco in casa, ma lui riesce sempre a raccogliere qualcosa che noi non possiamo mangiare, ma che è buona per i suoi amici animali. Sebbene lei stessa non se ne rendesse conto, fu questo discorso su Deacon che convinse Mary a uscire. Nei giardini non avrebbe trovato né ponies né volpi, ma uccelli dovevano essercene. Forse erano diversi da quelli che vivevano in India, e forse sarebbe stato interessante vederli. Marta l'aiutò a infilarsi un golf pesante, glielo abbottonò fino al collo, le mise un berretto di lana in testa e le fece calzare un paio di stivaletti. Eccoti pronta. Guarda, impara la strada. Andiamo giù per questo corridoio, scendiamo la scala che c'è subito a sinistra e questa porticina mette in un viale del giardino. Il viale gira tutto intorno al castello, ma tu entra di là. Indicò un cancello di ferro nella siepe di cinta. Così puoi girare per tutti i giardini, ma sarà facile per te ritrovare la strada quando vuoi tornare di sopra. D'estate ci sono tanti fiori, ma ora è tutto secco, peccato. Sembrò esitare un istante. Sai, c'è uno dei giardini chiuso a chiave. Nessuno vi è entrato da 10 anni. Perché? Domandò Mary. Non voleva mostrare il suo interesse per non dare soddisfazione a Marta, ma la sua curiosità non le consentiva di tacere. Mister Craven lo chiuse quando ci fu la disgrazia della signora. Era il suo giardino. Ora lui non vuole che nessuno ci vada. Lo ha chiuso e ha sotterrato la chiave. Oddio, il campanello di Mrs. Medlock! Devo scappare subito da lei! Vai, vai! Mary uscì dalla porticina e andò verso il cancello che portava ai giardini. Le parole di Marta le ronzavano nella testa. Un'altra porta chiusa in quella strana casa. Un giardino dove nessuno era più entrato da 10 anni. Una chiave nascosta sottoterra per sempre. Chissà se c'era ancora qualche pianta viva in quel giardino. Qualche albero, certo, poteva esserci ancora. Gli alberi vivono tanti anni nei boschi, senza che nessuno li curi. Ma le piante, i fiori. Oltrepassò il cancello e si trovò in un grande giardino con spaziosi prati verdi ornati da basse siepi di bosso. C'erano alberi e aiuole nei prati e sempreverdi tagliati in forme strane. C'era anche una vecchia fontana di pietra, ma le aiuole erano secche e tristi e la fontana non buttava. Questo non poteva essere il giardino segreto perché la porta era aperta. Ma come si poteva chiudere un giardino? Un giardino è fatto per camminarci dentro. Mentre stava pensando così, vide che alla fine del viottolo che lei stava percorrendo c'era un grosso muro coperto di edera. Non conosceva ancora abbastanza l'Inghilterra per sapere che quello era un orto dove si coltivavano frutta e verdure. Si avvicinò al muro e vide che c'era una porta aperta, una porta verde, un po' nascosta dall'edera, ma aperta. Evidentemente neanche questo è il giardino chiuso, pensò entrandoci. Il giardino orto era circondato da mura. Era uno dei tanti che si aprivano uno dentro l'altro come in una scatola magica. C'era nel suo muro un'altra porta verde aperta, che mostrava siepi, sentieri e aiuole in cui si coltivavano ortaggi d'inverno. C'erano anche alberi da frutto tirati a spalliera verso il muro, e alcune aiuole erano coperte da serre di vetro. Che posto squallido e brutto, pensò Mary, ricordando il giardino della sua villa in India, traboccante di fiori colorati. Neanche un po' di piante belle. Forse d'estate, come ha detto Marta. Un vecchio giardiniere con una vanga sulla spalla attraversò il vialetto dove era Mary e si diresse verso la porta del giardino più interno. Sembrò sorpreso nel vedere la bambina. Poi si toccò il berretto con la mano destra. Aveva una faccia cotta dal sole, piena di rughe, e non accennò neppure un sorriso. Sembrava contrariato per l'incontro. Che giardino è questo? Gli chiese Mary con la sua espressione scontrosa da signorina sempre no. Non è un giardino, è un orto, la corresse lui. E quello cos'è? Insisté Mary, accennando al di là della porticina verde. Un altro orto. E poi c'è un altro giardino da quell'altra parte del muro e poi c'è ancora un altro orto dopo quello. Posso andarci? Se vuoi, ma non c'è niente da vedere. Mary non rispose. Si avviò per il sentiero verso la seconda porta verde. C'erano ancora muri, edera, ortaggi invernali, serre. Arrivata al secondo muro, però, notò che c'era una porta verde, ma era chiusa. Forse era quella del giardino chiuso da 10 anni? Mary non era una bambina paurosa ed era stata abituata a fare sempre quello che le saltava in mente. Così si avvicinò alla porta e girò decisamente la maniglia. Sperò che la porta non si aprisse perché ciò avrebbe significato che aveva trovato il giardino misterioso. Ma invece la porta cedette subito e lei si trovò in un altro orto. C'erano muri tutti intorno e alberi da frutto tirati a spalliera contro i muri. Nelle aiuole crescevano altri alberi da frutto. L'erba era secca, bruciata dal freddo. Mary osservò con attenzione il muro che delimitava l'orto. Non c'era nessuna porta. Guardò meglio, seguendo con gli occhi la costruzione del recinto, e notò che il muro di cinta continuava a un'estremità dell'orto, come se continuasse un disegno prestabilito, come se racchiudesse un altro giardino al di là di quello in cui Mary si trovava. Al di sopra della cinta poteva vedere le cime di altri alberi. Mentre osservava tutti i minimi particolari, scorse sul ramo di uno di quegli alberi un uccellino dal brillante petto rosso. Come se l'avesse vista anche lui e volesse salutarla, il pettirosso cominciò a cantare. Mary si fermò ad ascoltarlo. Quel trillare allegro le sembrò il saluto di un amico e le dette una sensazione di allegria e di gioia. Anche una signorina sempre no può sentirsi sola. Anche se non vuole ammetterlo, in una casa immensa e solitaria, sperduta nella brughiera, può sentirsi straniera in una sequenza di giardini vuoti e spogli. E il canto di quell'uccellino le diceva ora che non era sola. Mentre Mary lo ascoltava, il suo visino cambiava espressione, sembrava quasi illuminarsi di un sorriso. Poi il petirosso volò via. Non ho mai visto in India un uccello col petto rosso, riflette Mary. È bellino. Speriamo di poterlo rivedere ancora. Mi piace. Chissà, forse lui può volare nel giardino segreto. Forse lui sa dov'è. Non poteva togliersi dalla testa il pensiero del giardino segreto. Forse perché non aveva altro a cui pensare, forse perché non aveva niente da fare, però come avrebbe voluto sapere perché Mr. Craven aveva messo sottoterra quella chiave? Se aveva voluto tanto bene alla moglie, perché odiava il giardino che lei aveva amato? Forse un giorno Mary avrebbe potuto incontrare questo zio sconosciuto, avrebbe potuto parlare con lui, ma non le sarebbe piaciuto di sicuro un uomo così. E lei non sarebbe piaciuta a lui. Anche se l'avesse incontrato, sarebbe rimasta a guardarlo, senza parlare. No, non sarebbe riuscita a chiedergli perché aveva fatto una cosa così strana e cattiva. Chiudere un giardino e seppellirne la chiave. Di solito io non piaccio a nessuno, pensò, e nessuno piace a me. I bambini del pastore Crawford parlavano con tutti, ridevano, facevano sempre confusione. Io non sarò mai come loro. Ripensò al petirosso, a come le aveva fatto piacere che le dedicasse il suo canto, e si voltò ancora a guardare il ramo dove le era apparso, e un pensiero improvviso le attraversò la mente. Ma certo, esclamò. Quell'albero deve essere nel giardino segreto. Il muro di cinta qui continua, ma non ci sono porte per entrare dall'altra parte, dove ci sono quegli alberi. Deve essere quello il giardino, al di là del muro. Ritornò indietro verso il primo degli orti. Il vecchio giardiniere stava vangando un'aiuola, si fermò davanti a lui e lo fissò per qualche istante con l'espressione che metteva nei suoi occhi quando voleva sembrare indifferente. Lui continuò il suo lavoro, come se lei non fosse lì. Perciò alla fine Mary fu costretta a parlare. Sono stata negli altri giardini, disse. Nessuno ti aveva detto di non andarci, borbottò lui. Sono stata anche nell'ultimo orto. Non c'è nessun cane a mordere nessuno. Ma nell'ultimo orto non c'è nessuna porta per passare nell'altro giardino, disse Mary tutto di un fiato. Quale giardino? Chiese il vecchio smettendo di vangare e guardandola fisso negli occhi. Quello che c'è al di là del muro di cinta, spiegò Mary. Si vedono le cime degli alberi al di sopra del muro. C'era un uccello col petto rosso sul ramo di uno di quegli alberi. Stava lì e cantava, l'ho visto bene. Con grande sorpresa della bambina, il viso rugoso e burbero dell'uomo cambiò improvvisamente espressione. Un'ombra di sorriso gli diradò le rughe e fece brillare gli occhi. Come può diventare più bella una persona se sorride? Pensò Mary guardandolo. Era la prima volta che le veniva fatto di osservare una cosa del genere. Il giardiniere si volse dalla parte del frutteto e cominciò a fischiettare, ma in un modo così dolce e affettuoso che Mary rimase meravigliata e si chiese come potesse un uomo che sembrava così arcigno fischiare in quella maniera. Dopo qualche minuto successe una cosa meravigliosa. Si udì un frullare di ali nell'aria ed ecco il piccolo uccello dal petto rosso arrivare e posarsi proprio sulla zolla che il vecchio aveva appena finito di sollevare e che si trovava accanto al suo piede. Eccolo qui, bisbigliò il vecchio. Poi si rivolse alla bestiola e le parlò come se fosse un bambino. Dov'è stato questo birbante che non si è ricordato ancora di me stamattina? Stai già pensando a fare il nido, eh? Non è ancora un po' presto? L'uccellino piegò il capo da una parte e guardò l'uomo con quel suo brillante occhio nero che sembrava una goccia di rugiada scura. Si vedeva che erano molto amici lui e il vecchio. Non c'era ombra di timore nella bestiolina. Si mise a saltellare di qua e di là, beccando nella terra rimossa a caccia di semi e di insetti. Mary lo guardava e sentiva dentro di sé una sensazione dolcissima. Era così bellino e allegro che incantava. Aveva un corpicino rotondetto e morbido, un becco così piccolo, ma così preciso nel prendere il cibo, e delle zampine così magre, ma così forti. Viene sempre quando lo chiami? Chiese al vecchio. Certo, siamo amici da quando era un cosino così, senza neanche le penne. Un giorno cadde al di qua del muro. Il nido era su un albero dell'altro giardino, ma lui non aveva la forza di tornarci, così lo tenni con me per qualche giorno. E diventammo amici. Quando fu capace di tornare al di là del muro, il resto della covata se n'era andato. Si è sentito solo. Ed è tornato da me. Che tipo di uccello è? Chiese Mary. Ma non lo vedi? È un petirosso. Sono gli uccellini che si affezionano più di tutti gli altri. Se sai come trattarli, ti stanno sempre accanto come cagnolini. Guardalo come becca, come si guarda intorno, come ci osserva. Si è accorto che parliamo di lui, sai? Oh, è un vanitoso. Gli piace che la gente parli di lui. E guardalo com'è curioso. Vuol sapere cosa pianto. Va a controllare le sementi. Ne sa più lui del giardino che Mr. Craven. È lui, il capo giardiniere, ti assicuro. Il petirosso saltellava indaffarato qua e là, beccando per terra, e ogni tanto si fermava e guardava il vecchio o Mary, muovendo la testina verso l'uno o l'altra con quei suoi occhietti goccia di rugiada nera. Mary lo osservava incantata e sentiva sempre più forte quella sensazione di tenerezza dentro di sé. Dov'è andato il resto della covata? Chiese, seguendo il filo del suo pensiero. E chi lo sa? I genitori decisero che era ora che i figli volassero e li spinsero fuori dal nido. Sai come fanno? Poi loro se ne vanno e addio. Ma questo è uno che capisce le cose e quando si è accorto di essere solo è tornato a cercarmi. Mary fece un passo verso l'uccellino e lo fissò intensamente. Anch'io sono sola, disse. Non aveva mai pensato prima d'allora che era la sua solitudine forse la causa del suo modo di fare, sempre imbronciato. Ma ascoltando la storia del petirosso aveva sentito una certa solidarietà verso di lui e voleva fargli sentire che lo capiva, che gli era vicina. Il vecchio giardiniere spinse il berretto indietro dalla fronte e la fissò per un attimo. Sei la piccola venuta dall'India, eh? Le chiese. Mary fece di sì con la testa. Per forza ti devi sentire sola. Prima c'era il pettirosso a sentirsi solo, ora tocca a te. Riprese a vangare affondando con forza la zappa nella terra, mentre il pettirosso continuava a saltellare e becchettare qua e là. Tu come ti chiami? Chiese Mary al vecchio. Ben Weatherstaff, rispose lui smettendo di vangare e indicando con il pollice della destra l'uccellino. Sono solo anch'io, quando non c'è lui a farmi compagnia. È il solo vero amico che ho. Io non ho neanche un amico, rifletté Mary. Non ne ho mai avuti. La mia Ayah stava con me, ma non mi voleva bene, né io a lei, e non ho mai avuto nessuno per giocare con me. La gente dello Yorkshire è abituata a dire francamente, a voce alta, ciò che pensa, e Ben Weatherstaff era un rappresentante perfetto della sua regione. Mi pare che tu e io ci assomigliamo un poco. Siamo stati tagliati nella stessa stoffa. Non si può dire che siamo due meraviglie, non facciamo nessuno sforzo per piacere agli altri. Insomma, siamo due bei tipi, va, due bei tipi. Questo era veramente parlare a tu per tu. Mary, abituata a essere sempre servita e riverita, a non ascoltare mai un giudizio sincero su di lei, ma sempre frasi di convenienza, mai un rimprovero per cose sbagliate, cominciò a riflettere. Marta la mattina le aveva detto altre cose, ora a Ben, e sempre con quel fare semplice, diretto. Un trillo argentino risuonò alle sue spalle. La bimba si volse e sui rami del melo vicino a lei vide il petirosso. Perché è volato lassù adesso? Chiese a Ben. Perché vuol farsi notare da te, rispose lui. Vedi come ti guarda? Vuol fare amicizia con te. Con me? Mary si mosse e si avvicinò all'albero. Davvero vuoi fare amicizia con me? Chiese parlando all'uccellino come se fosse una persona. Per la prima volta nella sua vita non usava il tono arrogante di sempre, ma bisbigliava così affettuosamente e teneramente che Ben ne fu sorpreso tanto quanto lo era stata lei a sentirlo fischiettare poco prima. Ma allora non poté trattenersi dall'esclamare: Sai parlare anche come una bambina, non solo come una vecchia rabbiosa e acida. Adesso mi sembri Deacon quando parla ai suoi amici della brughiera. Ma tu lo conosci, Deacon? Chiese Mary volgendosi verso di lui tutta eccitata. E chi non lo conosce? Va dappertutto come il vento. Lo conoscono perfino le more delle siepi e i cespugli di Erica. Le volpi gli mostrano le tane dove tengono i cuccioli. Pensa un po', e le allodole non si preoccupano quando lui si avvicina ai loro nidi. Mary avrebbe voluto sentire ancora tante altre cose, fare altre domande. Deacon la interessava quasi quanto il giardino segreto. Ma proprio in quel momento si sentì un frullo d'ali e si vide il petirosso spiccare il volo e allontanarsi verso il cielo. È volato al di là del muro, esclamò Mary che lo aveva seguito con gli occhi. È volato sopra il frutteto, poi è andato al di là dell'altro muro. È nel giardino che non ha porta. Lui vive là, confermò Ben. È là che ha rotto il guscio del suo uovo. Insomma, che è nato. Quando si cercherà una mogliettina, puoi star certa che sarà una pettirossa nata anche lei da quella parte, e faranno il nido fra i rami di un rosaio. Rami di un rosaio? Ci sono alberi di rose là dentro? 10 anni fa ce n'erano, borbottò Ben burbero, riprendendo a vangare. Oh, come mi piacerebbe vederli! Esclamò Mary. Dov'è la porta per entrare? Deve pure esserci una porta. Ben affondò la vanga nella terra, aiutandosi con un piede per spingerla più forte, e il suo viso ritornò serio e impenetrabile. 10 anni fa c'era, affermò in tono brusco, ma adesso non c'è più. Come fa a essere sparita? Una porta non può sparire, deve essere da qualche parte, insistette lei. Non sono affari tuoi. È una storia che non ti riguarda, è meglio per te non immischiarti. Non si deve mai ficcare il naso nelle cose che non ci riguardano. E ora vai, vai, devo continuare il mio lavoro, non farmi perdere tempo. Il vecchio sembrava proprio arrabbiato. Si mise la vanga su una spalla e se ne andò, senza neppure guardare dalla parte di Mary o accennare un segno di saluto.